taglia. Togli. Metti. Poni. Teglia. Mitraglia. Tiglio. Ciglia. Meglio. Figlio. Taglio. Leva. Lava. Neve. Altro. Lima. Salima. Stima. Lama. Mm-hmm.